Io vivo in strada, sono libero. La mia casa, il mondo, l'esperienza in me. Ogni porta chiusa dietro a te. Magico, insieme a...